corso di laurea in medicina e chirurgia. La parola medicina viene dal latino medicus, a sua volta derivato di medeor, curo le malattie. Ippocrate è considerato il padre della medicina. A lui sono stati attribuiti i preziosi testi della prima elaborazione scientifica della medicina ellenica. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia è articolato su 6 anni di corso e prevede l'acquisizione di 360 crediti formativi universitari, CFU, divisi in unità di apprendimento da 25 ore ciascuna, unità che includono sia l'attività didattica impartita dai docenti sia lo studio autonomo. Il corso di laurea in Italia. Per accedere a un corso di laurea in medicina in Italia è necessario superare un test di ammissione molto selettivo. Non di rado gli studenti intenzionati a diventare medici affrontano il test per diversi anni prima di riuscire a superarlo, oppure ripiegano su altre facoltà in ambito scientifico per non rimanere fermi. Il corso di laurea in medicina si conclude con un esame di laurea che comprende la discussione di una tesi. Una volta conseguito il titolo, si è medici a tutti gli effetti, ma per esercitare la professione è necessario iscriversi all'albo dei medici e completare la propria formazione con ulteriori studi, frequentando una scuola di specializzazione. Durante la specializzazione, gli specializzandi potranno fare quella pratica sui pazienti che nel corso degli studi, nella maggior parte dei casi, non hanno potuto fare. La durata di un corso di specializzazione, di solito a frequenza obbligatoria, varia dai 2 ai 5 anni a seconda del tipo di corso scelto.